Il punto di Stefano Folli. C'è molta attesa per il messaggio di stasera del Capo dello Stato. In fondo anche quelli che si preparano a contestarlo, a spegnere il televisore o addirittura come Grillo a rinnovare la singolare richiesta di impeachment dimostrano che si tratta di un passaggio importante, perché Napolitano dovrà inaugurare una fase nuova, quella che nel giro di poche settimane dirà se questo governo o un altro sono in grado di assumersi la responsabilità di voltare pagina e affrontare i problemi del lavoro, della ripresa economica, di riforme troppo a lungo rinviate, volte a spezzare le infinite ingessature che soffocano e paralizzano il sistema Italia a ogni livello. Le parole sono state spese tutte, i fatti fin qui sono pochi. Non sappiamo cosa dirà il Capo dello Stato, ma tutti avvertono che questo è il tornante decisivo per l'Italia e la sua coesione nazionale, pensando soprattutto a chi lavora, a chi manda avanti un'impresa o una famiglia. È un capodanno particolare per tutti.